2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Potete raggiungerci scrivendo la nostra email 2024@radio24.it oppure cercarci sui social network Twitter e Facebook. Questa settimana parleremo di scuola e anche di automobili a guida autonoma per capire qual è la verità dietro a questo grande fenomeno, quali sono i macro trend, con una persona che ci è venuta a trovare nei nostri studi direttamente da Silicon Valley. Tra le tante notizie della settimana, una particolarmente tra il curioso, interessante e anche preoccupante riguarda il network televisivo americano Showtime, che opera principalmente su internet, e in modo particolare sono un paio di siti web di Showtime che sono al centro di critiche feroci. Perché allora, che cosa si è scoperto? Che appunto su un paio di siti di Showtime era stato installato un software che sfruttava la potenza di calcolo dei computer dei visitatori per produrre criptomonete, in particolare Monero. È una delle tante criptomonete particolarmente nota per l'attenzione alla privacy. Poi dietro questo concetto per alcuni c'è anche una buona dose di anonimato molto forte per nascondere certi business poco leciti. E comunque appunto la cosa interessante e anche preoccupante è che questi siti internet, una volta che tu andavi, visto che uno clicca su, di solito uno accetta i cookie, però possono apparire messaggi per accettare altre cose, e per alcuni non c'era stato nessuna accettazione, nel senso che questo software lavorava all'insaputa degli utenti, ma sfruttava la potenza di calcolo dei computer, quindi migliaia di computer collegati per fare il mining, così si dice in termini tecnici, di una criptomoneta. Perché le criptomonete, la produzione di criptomonete funziona in questo modo: si sfrutta la potenza di calcolo dei computer e ci vuole sempre più potenza di calcolo. Mano a mano che la quantità di criptomonete si diffonde, la potenza di calcolo richiesta dagli algoritmi di produzione delle monete cresce sempre di più, tant'è che oggi produrre ad esempio Bitcoin è molto costoso. Devi avere delle infrastrutture adeguate, devi poter accedere a energia elettrica a bassissimo costo, e ci sono oramai zone remote del mondo, soprattutto in Cina, dove ci sono delle file di computer particolari che hanno un hardware particolare in posti remoti dove l'energia elettrica costa molto poco, magari di fianco ad una centrale elettrica. Riparleremo di criptomonete e anche dei fenomeni che sono collegati. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Abbiamo un paio di notizie che riguardano gli aerei, la connettività a bordo degli aerei, poi parleremo di automobili. Allora iniziamo da Delta Airlines, che è la più grande compagnia aerea al mondo, che ha annunciato che permetterà di usare i servizi di messaggistica, come ad esempio WhatsApp, il Messenger di Facebook e anche iMessage di Apple, gratuitamente sui propri aerei dove c'è connessione Wi-Fi. Quindi uno può decidere se usare il Wi-Fi a pagamento per navigare sul web, quindi navigare per andare su siti internet, usufruire di servizi vari online, oppure limitarsi ad utilizzare la connessione solo per i messenger. In questo caso la connettività è gratuita, un regalo di Delta per le persone che vogliono anche a bordo degli aerei, magari anche per voli di alcune ore, mantenere contatti con la terra. EasyJet ha annunciato l'avvio fra poche settimane, inizialmente su due aerei, di un portale di intrattenimento di bordo con contenuti erogati via web, un po' come succede sui treni ad alta velocità italiani, dove è possibile accedere a contenuti che sono presenti in locale, quindi sono a bordo del treno e nel caso di EasyJet a bordo dell'aereo, e quindi la fruizione di questi contenuti è molto veloce, molto rapida, perché non si va in internet. Parliamo di automobili. Nel capitolo automobili vendute, tra virgolette, tra l'altro, in modo innovativo e pensando che l'auto sarà sempre più un servizio e non un prodotto, e questo è un concetto molto importante sul cui stanno lavorando quasi tutte le case automobilistiche, si parla di transport as a service, quindi non vendo più l'automobile, il pezzo di ferro, per semplificare molto, ma vendo un servizio di trasporto su abbonamento. Allora, all'interno di questo capitolo, di questo mega trend, da citare il nuovo servizio Care by Volvo, che via web permette di noleggiare il nuovo SUV compatto XC40 con un canone, quindi un abbonamento senza nessun anticipo, un po' come gli abbonamenti collegati al possesso di uno smartphone. C'è però un'altra novità interessante: sapete che la connettività a bordo delle automobili di molte marche è anche questo un trend molto, molto presente. È possibile condividere l'auto con il servizio presentato da Volvo con altre persone in una sorta di car sharing fra parenti e amici, visto che l'auto è connessa al web, quindi si può utilizzare un'applicazione con la quale aprire e poi utilizzare l'auto. In questo caso tu puoi ad esempio abilitare l'apertura a distanza dell'automobile e farla usare ad un familiare oppure ad un amico. Per il momento il servizio è collegato solo alla famiglia o comunque solo ad amici, però la prospettiva futura è poter far utilizzare l'auto anche ad altri privati, magari che fanno parte di un club, magari che sono tutti abbonati ad un certo servizio. Cioè tu puoi lasciare la macchina in parcheggio e durante la giornata, magari tu sei al lavoro, decidere che la tua macchina può essere prelevata e utilizzata anche da altri. Praticamente sei tu che fai servizio di car sharing e ovviamente incassi anche qualche soldo. Parliamo della TV, della nuova TV. La nuova TV è sempre più streaming via internet. Da questo fine settimana SportTube trasmetterà 3 partite della Serie A italiana a, pensate, 1,99 euro l'una. SportTube è un prodotto di una società che è specializzata in contenuti sportivi, che si chiama 11 Sports Network, che in Italia già trasmette le partite della Serie C e da questo weekend comincia a far vedere via internet in streaming anche 3 partite della Serie A. Parliamo di cyber security. C'è molta preoccupazione per l'infezione propagata da CCleaner, che è un popolare software per l'ottimizzazione delle prestazioni dei PC Windows. Però pochi giorni fa alcuni ricercatori hanno scoperto che CCleaner ha distribuito malware, quindi è proprio ironia della sorte, incredibile, a tutti gli utenti, no, non a tutti, a una parte degli utenti, e l'infezione sarebbe così grave che secondo uno degli esperti che ha analizzato questo problema, ha messo il naso dentro questo problema, l'unica soluzione sarebbe formattare il disco. Quindi informatevi sulle versioni, adesso non è che possiamo elencare tutte le versioni di CCleaner che sono state colpite da questo problema, però se lo utilizzate, insomma, drizzate le antenne. Ogni tanto parliamo di scuola perché è molto importante la trasformazione digitale anche nelle scuole, che passa soprattutto attraverso gli studenti che dal basso stanno cambiando le regole. Perché gli studenti vivono in un mondo che è molto digitale e in qualche modo bisogna adattarsi a quello che loro vivono. Poi anche loro devono adattarsi a certe dinamiche, però gli smartphone, internet stanno cambiando anche la scuola. Chiara Burberi, fondatrice di RedHawk, una piattaforma per insegnare e imparare la matematica, benvenuta a 2024. Grazie. RedHawk è una piattaforma software online che funziona via app, via smartphone. Che cos'è? E poi che cosa c'entra con la matematica? Allora, redhawk.com è una piattaforma di didattica digitale dedicata alle materie STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ed è un sito web, un grandissimo sito web, migliaia e migliaia di pagine, pensato per aiutare i professori a innovare la didattica nella scuola italiana, in particolare della matematica, la bestia nera in Italia, ma nel mondo, quindi sì, tranquilli, poi parliamo non siamo soli. Dell'importanza della matematica. Esatto. E in mano ai ragazzi, perché in realtà i ragazzi la utilizzano non soltanto sulla LIM in classe, sui PC, sui tablet, ma soprattutto sui loro smartphone personali. A casa noi abbiamo l'85% di traffico via smartphone dalle ore 20 22 ogni sera fino alle ore 8 di mattina. C'è un buco tra le 3 e le 7, devo ammettere. Quindi qualcuno però dormirà pure. Qualcuno dorme, però diciamo che lo studio la notte prima dell'esame è ancora vivace, quindi, ed è sostanzialmente via smartphone. Poi ovviamente la mattina il mix di device è un po' diverso, perché ci sono anche tante scuole, quindi tablet, PC e così via. Sottolineiamo che il traffico avviene via smartphone, perché ci sono ancora molte persone che, ma anche nelle aziende che fanno business tradizionale, che magari hanno il sito internet ma non si riesce a vedere via smartphone. Ecco, questi non hanno capito nulla di cosa sta succedendo nel mondo. Il nostro sito infatti è nativamente responsive, quindi è multi-device, quindi di fatto si adatta, diciamo, nativamente al terminale che tu usi, qualunque device tu abbia in mano. Ovviamente questo richiede molto investimento e tempo quotidiano perché questo succeda, però insomma è parte del gioco. Senti, è una piattaforma software che voi vendete in abbonamento, perché il modello di business si basa sul fatto che gli studenti o le scuole si abbonino, giusto? Esatto, noi lo vendiamo alle scuole come una modalità software as a service, di fatto a licenza annuale. Ovviamente per i professori è tutto gratis, le classi virtuali, tutte le funzionalità di didattica sono assolutamente gratis, e chiediamo invece c'è un prezzo per la licenza studente per anno, che l'anno scorso era 10 euro, ma quest'anno, per spingere proprio la diffusione massiva nelle scuole italiane, la offriamo a 1 euro a studente. Tra l'altro lo stiamo offrendo gratis a tutte le scuole che non hanno coperte le cattedre di matematica, quindi approfitto di questa visibilità per dare questa comunicazione alle scuole. Dunque, perché la matematica e perché soprattutto per te, che non c'entri nulla con la matematica, poi tu non hai c'entro un passato, poco, diciamo. Cioè poco. Tu non hai un passato da professoressa di matematica, insegnante di matematica. Penso che, sai, quando si parla di perché si fondano le start-up, si dice sempre, no? Per passione. È vero anche a 46 anni, io l'ho fondata 4 anni fa. Leggevo il giornale, il vostro in effetti, sui risultati PISA OCSE dei quindicenni italiani. Test di matematica, i risultati erano sotto la media OCSE. Dagli ultimi risultati i ragazzi italiani sono in media OCSE, vuol dire che sono 35esimi. È come se il PIL italiano diventasse fra 10-15 anni 35esimo. Bene. Pazzesco. Allora io, da economista, perché il mio background non è di matematica ma da economista. Sì, perché tu hai lavorato in banca, in una società di consulenza, giusto? Io ho iniziato la mia carriera in Bocconi, poi appunto in McKinsey e poi in Unicredit in varie posizioni in Italia e all'estero. E poi ti sei accesa sta lampadina. E poi ho deciso di fare qualcosa per l'Italia e per i ragazzi italiani, probabilmente anche perché sono mamma di due ragazzini che stanno crescendo in questo mondo, io dico, ad alta velocità. E quindi ho deciso di fare qualcosa, perché va bene leggere i numeri dei risultati PISA OCSE, ma bisogna anche leggere i numeri per proporre qualche azione concreta. Sì. Francamente, come mamma, come economista, come cittadina, non vedevo tantissimo. E quindi ho deciso, facciamo qualcosa cercando di capire qual è il problema. I ragazzi italiani sono veramente mediamente meno intelligenti, perché matematica uguale intelligenza, poi magari è un falso mito, no? Però è un pensiero comune. Allora ho detto, pensiamo come viene insegnata la matematica, e ho scoperto che viene tuttora insegnata esattamente come è stata insegnata a me decenni fa, nell'altro secolo, più o meno con gli stessi libri, hanno molte più foto, sono molto più colorati, sono molto più belli, molto più pesanti, ma esattamente dicono le stesse cose da più di 100 anni. Allora mi sono detta, perché non offrire ai ragazzi un materiale, dei contenuti che usino il loro linguaggio? Quindi non soltanto lo smartphone, perché loro hanno questo telefonino in tasca, hanno il mondo in tasca, ma anche video, ma anche per così incentivarli a fare gli esercizi, un grande videogioco online. I nostri esercizi sono tutti a livelli di difficoltà crescente, con i tentativi, le vite, i passaggi di stato, gli avatar e così via, ma sono esercizi che, come dicono i nostri utenti, piacciono perché ti fanno pensare. Cioè, no? Sono esercizi seri. Sono esercizi seri. Però di fronte a quello che tu hai detto, e di fronte ad una delle tue tante presentazioni che fai, uno potrebbe dire, ma come? Tu vuoi insegnare la matematica attraverso un sistema che assomiglia più ad un gioco, più che ad un libro tradizionale. Vuoi insegnare la matematica attraverso o il tablet o lo smartphone? Scandaloso, scandalo. Beh, se si pensa che la tecnologia sia il fine, sì, ma dato che io penso che sia un mero mezzo che i ragazzi hanno già in mano e utilizzano benissimo, molto meglio di quanto noi adulti possiamo immaginare e pensare, io dico, vediamo veramente cosa succede nel mondo. Nel mondo succede che da anni ormai un sacco di materie, tra cui la matematica, è studiata non sui libri di testo tradizionali, ma online, ovviamente con carta e penna accanto, perché la matematica poi si scrive e si disegna, ma l'ingaggio, il divertimento anche e la curiosità di andare a cercare, informarsi, approfondire, divertirsi, cioè l'incentivo e il gancio che dà la tecnologia nella forma di gamification è qualcosa estremamente simile al divertimento, al piacere con cui, da che mondo è mondo, l'uomo impara. Dai greci peripatetici al nostro voler imparare a giocare magari a tennis a 40 anni. Quindi tu dici lo smartphone fa parte del nostro mondo e bisogna sfruttarlo anche per imparare, ad esempio. È uno strumento come carta e penna, come il libro, come andare in libreria, in biblioteca oppure cercare su Google. Questa cosa gli insegnanti lo hanno capito, virgola, il ministero lo ha capito? Allora, i funzionari del ministero lo hanno capito? Ma allora devo dirti, 4 anni fa io sono partita e ovviamente tutti mi davano della pazza perché parlavo di STEM, no? Questo acronimo totalmente sconosciuto in un mondo in cui veramente, ma che cos'è? Ma perché poi la matematica? Adesso STEM è diventato un argomento centrale, unica materia citata, STEM e matematica, all'interno della buona scuola, fa parte del piano digitale. Quindi in questi 4 anni veramente l'evoluzione è stata rapidissima. Ieri ero in un paio di licei bresciani a presentare la piattaforma ai ragazzi e ai ragazzi e alle ragazze e ai professori, e con la LIM giocavamo in modo del tutto naturale. 4 anni fa noi facevamo fatica a entrare nei licei con delle LIM funzionanti. Il ministero l'ha capito, penso anche così le famiglie l'hanno capito, dell'importanza di offrire un'opportunità diversa, ecco, nell'istruzione per i loro ragazzi. Gli editori? Perché ci sono ancora un sacco di editori che sono lì che fanno i libri di carta. Adesso non è che dobbiamo far scomparire tutto domattina. Far scomparire. Guarda, io tra l'altro sto facendo il percorso inverso, quindi sono nata fully digital e in funzione delle richieste, delle esigenze didattiche dei docenti e degli studenti sto introducendo anche la possibilità della carta, di stampare e così via. Quindi gli editori... ovviamente forti della loro tradizione sperano che la carta non muoia mai. E così sarà. Fanno fatica però a pensare a una didattica diversa, perché loro partono dalla carta. Io sono partita dall'online, sì, dal digitale. Dalle preferenze, dalle abitudini, dalle preferenze di comportamento degli studenti, che sono i veri clienti, quindi i veri utenti. Quindi io sì, ascolto i professori, ma io guardo come usano la piattaforma i ragazzi. E tu mi garantisci che uno studente, un alunno, poi ci spiegherai a chi è rivolto in particolare, se ai piccoli o ai grandi, impara uguale, oddio. Mi verrebbe da dire che adesso quei libri non imparano, visti i risultati. L'hai detto tu, quindi giusto. Allora, un ragazzo su uno studente su 4 in Italia, media nazionale, il 25-26% circa, prende il debito di matematica al liceo. Se tu chiedi a un professore qualunque, dice che avrebbero dovuto prenderli in 2, probabilmente in 3, e comunque l'esame di settembre di riparazione non ripara, perché sono competenze che vanno accumulate negli anni, non l'ultima settimana d'agosto, l'ultima settimana d'agosto, come dice, ci dice Google Analytics. Allora, noi l'anno scorso abbiamo fatto dei lunghi piloti in 13 scientifici in Italia, nord, centro e sud, come da copione, in situazioni molto diverse, e il risultato è voti più alti e meno debiti. Ma perché? Col vostro sistema. Usato in modo sistematico, continuativo. Perché? Perché la matematica è uno sport. Se ti alleni costantemente e questo sistema attrae gli studenti a rientrare e ritornarci, quasi per definizione diventi più bravo, perché non stiamo parlando di un argomento impossibile ai più. La matematica è una competenza veramente naturale, noi tutti nasciamo con il senso della numerosità, quindi è veramente un elemento innato in noi poterlo sviluppare. Però bisogna svilupparlo. Però cioè, bisogna allenarsi. Perché è importante la matematica? Perché la matematica è logica, la matematica è libertà di pensiero, quindi la matematica è un linguaggio, quindi ai miei tempi si diceva, no, chi è bravo in latino e in greco è bravo anche in matematica, ma non è un caso, no, perché alla fine... Vero. Penso di sì, almeno l'esperienza dice questo, perché poi ci sono delle preferenze, no? Ma le preferenze spesso sono dettate dal professore, perché noi è sempre stato così, amiamo prima il professore e poi la materia e quindi siamo bravi di conseguenza tipicamente. Sì. Però la matematica è importante perché struttura il tuo modo di ragionare, quindi di analizzare il problema e di trovare una soluzione. Quindi è importante per la scuola, ma per il lavoro... E soprattutto per la tua libertà, consapevolezza da cittadino. Sì, per infatti, il lavoro è un per il lavoro tema, sicuramente, no? Noi abbiamo migliaia abbiamo di ragazzi. Di ingegneri, abbiamo bisogno di ragazzi. Softwareisti. Sì, veramente consapevoli del digitale. Non solo nativi digitali, ma io dico attivi digitali, che siano sì, consapevoli. Sì, come diceva Obama in quel famoso video, diciamo, non usare solo il videogioco, impara a programmare, fallo. E se non hai delle basi, certo. Adesso non è che devi per forza essere esperto di matematica, però... Però è logica, è no? Sì, quindi sì. È importante la strutturazione del pensiero. Poi spesso, sai, si confonde la matematica con il far di conto. Il fare i calcoli è un piccolo, piccolissimo un piccolo pezzo della matematica. La cosa importante è ragionare bene. Poi sì, i conti, vabbè, però... Sì. Comunque tu sfrutti la tecnologia, quello che i ragazzi usano e che usano molto bene lo smartphone... E il concetto che tu ci stai trasmettendo è un po' come quello che diceva: non mi interessa di che colore è il gatto, l'importante è che prenda il topo. Quindi l'importante è che imparino. Poi, esatto. E tu dici: questo metodo è più naturale per i ragazzi di oggi. Assolutamente sì. Loro sono attratti, i ragazzi sono attratti dai videogiochi. E sono presi dai videogiochi e ti dicono anche: se non è difficile il videogioco non mi diverto. Allora io dico: bene, allora la matematica se è non difficile. È un impegno, no? E allora, dato che poi tutti gli esercizi sono spiegati, non è punitivo ma è sempre incentivante, ci sono questi meccanismi che a loro sono molto noti, sono connaturati al senso del gioco proprio. Sì. Quindi nulla di diverso dalla Montessori, no? Che diceva che ogni apprendimento è individuale ed è basato sull'esperienza. Quindi. Tu la definisci ancora una startup? La tua azienda? È una startup. La tua startup la paragoni a un editore classico che fa business con la scuola? Perché il tuo obiettivo è fare business su sì, noi, sì, noi offriamo. Beh, il mio obiettivo vero è di cambiare il modo con cui si studiano le materie scientifiche in Italia, a scuola e nelle famiglie. Quindi in realtà ho due linee di business, una nei confronti delle scuole e una per le famiglie che spendono centinaia di milioni di euro, il doppio della spesa dei libri scolastici strutturalmente ogni anno per le ripetizioni private dei loro figli. E sono tipicamente concentrate in inglese, perché la gente non ha ancora capito che bisogna usare YouTube, sì, un po' esagero, però insomma, no, hai YouTube in tasca, certo. E latino e matematica. Matematica e fisica. Cioè, allora, gli italiani spendono il doppio dei soldi sì. che spendono in libri scolastici in ripetizioni. Mezzo miliardo, pazzesco. Il doppio in ripetizioni private, dove le ripetizioni private in Italia, nei paesi latini tipicamente, sono dei soldi spesi per i ragazzi che vanno male nelle materie per portarli al 6. In Inghilterra, in Germania, in Francia, viene chiamato il private tutoring. Le ripetizioni private sono invece soldi spesi per i ragazzi bravi, per farli entrare nelle grandi école, per farli entrare nei grandi licei, per farli entrare nelle grandi università. Quindi questa ci stai dicendo che Red Hawk è un metodo per risparmiare sulle lezioni private. Allora, Red Hawk è un metodo che piace ai professori perché trovano gli esercizi tutti spiegati che vengono autocorretti. Adesso fanno anche i compiti in classe con Red Hawk autocorretti, quindi finisce l'ora, suona la campanella e risultato. Subito possono discutere con i loro studenti gli esercizi che gli studenti hanno sbagliato e così via. Quindi una vera didattica attiva, immediata, non ti ridò il voto fra 3 settimane. Sì. E intanto sono passato alle disequazioni, no? Ecco. Piace agli studenti perché ingaggia, spiega, cioè ti coinvolge. Ma sai, quando tu parli delle equazioni in modo teorico non capisci questa X perché devi trovarla. Se invece la racconti raccontando la storia di ragazzi che decidono cosa devono fare il sabato sera, quindi la X è la decisione da prendere, la scelta da prendere, l'ingaggio emotivo è tutto diverso. Certo. Piace ovviamente ai genitori, perché sempre più spesso ci comprano per risparmiare sulle ripetizioni private, in tutto e in parte. Poi ovviamente senti, tecnologicamente parlando, dietro a tutto quello che ci hai raccontato, cosa c'è? Cioè è tutto cloud, no? Sì, sicuramente. Io direi sempre, innanzitutto c'è un bel team, Ivan e Alessandra, che costruiscono e manutengono tutti i giorni con una grande passione, devo dire, una grande curiosità, e proprio divertente lavorare con loro. Poi ovviamente c'è tanto cloud, c'è tanto open source, c'è tanta voglia di sperimentare. Adesso abbiamo integrato le tipologie di domande, stiamo facendo delle evoluzioni incredibili che, seguitemi, non faccio nessuna anticipazione. Perché l'hai chiamato Redoc? Redoc con due O. Redoc, perché io pensavo all'inizio che si pronunciasse Reduc, quindi Rethink Education. Sai che le startup vivono di errori, è un learning by doing. Ecco, quello è il mio primo errore. Quindi hai sbagliato il nome. Alcuni direbbero sei spacciata. Però. Sì, invece, sai, quando si è folli visionari e si vuole veramente fare qualcosa, a questo non si può tornare indietro, neanche su questo. Infatti, abbiamo fatto un sacco di investimenti attorno a questo nome, che sta diventando comunque noto, riconosciuto, ormai arrivo nelle scuole. Ci sono delle startup che mi hanno detto: abbiamo capito di aver sbagliato il nome, l'abbiamo cambiato e siamo arrivati a magari il nome attuale dopo 3 o 4 cambiamenti. Tu però dici: perché devo cambiare quello mai? Non lo so, queste sono scelte imprenditoriali, è proprio... A proposito di scelte imprenditoriali, ti faccio una domanda su: sei stata finanziata da venture capital o altro tipo di finanziamento, crowdfunding o bla bla bla? Allora, è iniziato con... io ho lasciato il mondo dell'azienda dopo tantissimi anni, quindi diciamo che mi sono autofinanziata all'inizio. Non uso termini inglesi, ma ci starebbero ma lasciamo stare. E poi ho avuto la fortuna anche di avere mio marito, che mi ha molto supportato, non soltanto dal punto di vista di finanziario, anche lui, ma proprio nell'aiutarmi a strutturare, no, la parte societaria, finanziaria e così via. Quando abbiamo avuto in mano i primi 3 contratti da parte di scuole, abbiamo convinto altri 8 business angels, sempre noi siamo ancora in questo stadio, a credere in noi, credere nell'idea soprattutto, tutti appassionati di education, mi conoscevano, quindi più o meno sapevano che di solito porto a casa quello che inizio, e adesso siamo in una fase in cui stiamo pensando veramente al vero passo successivo. Sì, tu non sei una ragazzina, anche se è vero che non esistono quasi le startup di ragazzini, perché anche questo è un mito. Forse sono più interessanti le startup di persone adulte che hanno un'esperienza. Che cosa mi dici della possibilità di fare startup in Italia? Si dice non fare scena muta. Sto cercando. Non puoi esagerare. Diciamo che così. Questo non è un paese per startup. Ecco. Questo non è un paese per giovani, no. Questo però non ci è un paese se la per può giovani. Fare, sennò tu saresti andata in Svizzera. Ma noi, allora, cito, noi italiani siamo magnifici nel gestire l'irrazionalità. Questa è la citazione da un grande chef, dal migliore chef del mondo, che è un italiano, che l'ha detto in un'intervista recentemente, ma l'Italia è fatta da veramente italiani magnifici. Ci sono persone, ragazzi, ragazze, adulti, gente veramente di cuore, di testa, di passione, ma questo è un paese magnifico, senza dubbio. E su questo siamo d'accordo. Sì, fantastico. Peccato che tutta la struttura, diciamo, burocratica amministrativa rema un po' contro. La normativa è veramente pensata per evitare utilizzi, diciamo, negativi, non ottimali. Però a questo punto è una normativa che penalizza di più le persone oneste che hanno voglia di fare così via. Quindi non è impossibile, è incredibilmente faticoso. È una fatica che si potrebbe, cioè tempi ed tempo ed energia che si potrebbe dedicare veramente a qualcos'altro. Ultime due o tre domande, poi me ne vengono in mente altre 10. Mi puoi rinvitare. Dunque, questa piattaforma può essere utilizzata anche per altre materie? Perché se funziona per insegnare la matematica, io potrei pensare che funziona anche per insegnare il latino, il greco oppure l'italiano. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo iniziato a sviluppare anche fisica, scienze, economia e finanza, che è la mia vera passione, assolutamente. Noi abbiamo delle magnifiche lezioni non convenzionali ma molto concrete, molto pratiche di economia e finanza, dall'interesse composto alle come nasce la startup e come si fa il business plan o il pitch agli investitori. E devo dirti che tantissimi professori, sempre di più, mi stanno chiedendo non soltanto una versione inglese, che stiamo già facendo per la primaria, poi ti parlo degli utenti, e mi chiedono tantissimo di aiutarli nell'invalsi di italiano, anche nella grammatica italiana, nel latino, nell'inglese e così via. Io credo molto però nella specializzazione, quindi credo molto che abbiamo tanta strada da fare ancora sulle materie STEM, anche tanto sulla matematica ancora, quindi cerco di concentrarmi, però è evidente che è una piattaforma di didattica digitale innovativa, quindi è fatta, pensata per mettere veramente lo studente al centro dell'apprendimento e quindi scardinare totalmente la tradizione che dice che il professore entra in aula e ripete quello che sa, che è una cosa che già medievale. Confucio diceva che non esiste, cioè sento, dimentico, leggo, ricordo, faccio, capisco. Che cosa mi volevi dire sugli utenti? Noi abbiamo l'ambizione di servire i 13 anni di scuola, quindi dalla prima elementare, già iniziano a chiedermi per la scuola dell'infanzia, ma anche lì metto lo stop, dalla prima elementare fino alla maturità, in realtà fino ai corsi di matematica generale dell'università. A proposito di business, una delle cose che si dice spesso dei servizi online, quindi che vanno sotto il capitolo di software as a service, cioè software venduto in abbonamento come un servizio. Una volta invece il software era: ti vendo il CD, te lo compri, te lo installi a scatola, ciao, arrivederci. Questa cosa è, come direbbero nel mondo delle startup, scalabile. Cioè, perché non apri anche in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, eccetera, eccetera? Infatti ti ho detto che adesso siamo pronti per il passo dopo. Perché sì, fatta la piattaforma assolutamente scalabile. È scalabile per contenuti, per target e per lingue. Sì, sì, anche perché il business nel software, e soprattutto nel software erogato come servizio, è fantastico. Cioè, se funziona. Funziona, sì, perché poi è il prodotto, tra l'altro, questo software cambia ogni giorno, no? Noi abbiamo la possibilità di recepire i commenti degli utenti proprio online sugli esercizi, sul materiale, e noi continuiamo a cambiarlo. Se vendessimo CD o libri di carta, dovremmo aspettare l'anno successivo con la famosa errata corrige. Sì. Questo mondo non è più così. Ultima domanda: internet c'è nelle scuole italiane? Grande miglioramento, questo no, va onore al merito. 4 anni fa era un disastro, come ti dicevo, era veramente. Cioè, oggi è abbastanza diffuso. Adesso è abbastanza diffuso, cioè veramente non è più accettabile l'alibi dei professori, dei docenti, del preside, che dicono no, qui da noi non si può fare, basta volerlo, lasciate che i ragazzi portino lo smartphone in classe, lasciate e responsabilizzateli a usarlo bene. Ieri di nuovo mi dicevano: ma certo che lo faccio usare lo smartphone, quando hanno bisogno di fare esercizio, ragazzi, fuori lo smartphone, oppure tiratelo su da sotto il banco, usiamolo e poi via, esattamente come chiedi di tirar fuori dallo zaino un libro e poi gli chiedi di rimetterlo a posto. Ma qual è il problema? Siamo nel 2017, questi ragazzi lavoreranno nel 2020, 25, 30, ma vogliamo aiutarli oppure cosa? Bene, grazie a Chiara Burberi per essere stata con noi. A presto, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie. 2024. Bentornati, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. Ci trovate anche su Facebook oppure su Twitter. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24, siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica fra le 13 e le 14. E come sempre vi ricordo la nostra edizione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Adesso parliamo di uno dei più grandi megatrend del momento, quello delle automobili che si stanno elettrificando ma che stanno diventando sempre più automatiche con una certa gradualità. Ma già oggi ci sono macchine che se le acquistate, anche macchine abbastanza popolari che hanno un sacco di sistemi di assistenza che automatizzano, che ne so, la frenata ad esempio, molto importante. Stefano Marzani, Director of Autonomy Programs in Shenzhen. Benvenuto a 2024, Stefano. Grazie. Tu sei italiano, approfittiamo del fatto che tu sia in Italia in questi giorni. Tu, Stefano, lavori in Shenzhen, che è un'azienda di Palo Alto, ti occupi della programmazione di tutto l'ecosistema della guida autonoma. Prima di arrivare a Shenzhen, che alcuni potrebbero ricordare con il vecchio nome di Xianogen, si occupava di smartphone e di software per smartphone, del mondo Android, poi magari diciamo due parole sul cambiamento che ha fatto l'azienda. Tu da molto tempo ti occupi, giusto per far capire ai nostri ascoltatori, molto di Internet of Things, di Internet degli oggetti. Che cosa facevi prima di Silicon Valley? Beh, diciamo che ho iniziato come ricercatore all'università, come le storie più classiche italiane, diciamo, quando esci dall'università, un'idea di sviluppare un sistema di interazione uomo-macchina all'inizio, da cui è poi nata un'azienda che si chiama Relab, di cui sono totalmente socio e cofondatore della società, che è ormai uno dei leader dell'interazione uomo-macchina in Italia sicuramente, soprattutto per veicoli. E facendo l'interazione uomo-macchina nei veicoli, a un certo punto ci siamo accorti che non poteva migliorare lo smartphone. E quindi come facciamo a collegare lo smartphone e integrarlo col veicolo? Questo qualche anno fa. Qualche anno fa. Perché uno potrebbe dire, oh vabbè, oggi è ovvio, no? Certamente. Nel 2007 esce l'iPhone, quindi 10 anni fa, e nel 2009 esce Made for iPod, che era il programma di accessori, come dire, autorizzati Apple per varie cose, dagli speaker ai Bluetooth e tutto quanto. E subito dopo noi siamo specializzati in questo tipo di tecnologie, siamo stati proprio tra i primi a occuparci di questa implementazione di questa tecnologia Apple, e poi si è posto il problema che l'auto è diventato un accessorio dello smartphone, secondo proprio la tassonomia ufficiale Apple. E quindi... Pensa, interessante, l'automobile è diventato un accessorio dello smartphone. Assolutamente, se leggi la documentazione Made for iPod ufficiale, l'accessory è l'automobile in quel caso, per cui... Da lì nasce un po' tutta la nostra storia IoT, perché fare colloquiare un dispositivo consumer come uno smartphone con un veicolo, che è una piattaforma con delle reti di bordo che si chiamano CAN bus, con tutto l'OBD, tutte queste parole un po' esoteriche, diciamo, del veicolo, richiede specializzazione, richiede imparare a parlare quel linguaggio. Poi ci siamo accorti che in realtà tutti gli oggetti hanno dei linguaggi diversi, quindi se parli con i veicoli c'è il CAN, se parli con i trattori c'è l'ISOBUS, se parli con gli aerei c'è altri tipi di reti e così via. E quindi la nostra piattaforma Diquid nasceva con Internet of Things, nasceva con l'idea di collegare tutti questi oggetti, di renderli astratti, quindi poter creare delle applicazioni per questi oggetti senza dover entrare nello specifico dell'interiore dell'oggetto, dell'automobile, della macchina o di qualche altra cosa, trattori e camion, perché poi forse vedremo prima i camion a guida autonoma delle automobili a guida autonoma, prima nel senso sulle strade, veicoli commerciali veri e propri. Dunque, a questo punto, tra l'altro noi ci siamo incontrati a proposito di Internet degli oggetti ad un Consumer Electronics Show qualche anno fa, e dopo qualche anno siamo riusciti effettivamente ad incontrarci qui nei nostri studi. Nel frattempo tu appunto sei entrato in Shenzhen, che dicevo faceva un software per smartphone, giusto? Certamente, ha fatto per tanti anni un software, un sistema operativo mutuato, diciamo, da Android, perché Android è un progetto open source, quindi loro avevano fatto un branch del progetto che però era più aperto, perché all'inizio, non tanti se ne ricorderanno, ma Android era abbastanza chiuso come iOS, all'inizio erano sistemi molto chiusi, e invece Shenzhen all'epoca nasceva con l'idea di dare più possibilità di interagire col sistema operativo. E ha avuto un bel successo Cynogen, e ha avuto un bel successo, è finito su milioni di terminali. E poi però si sono, gli imprenditori si sono resi conto che effettivamente ormai gli spazi erano saturati e quindi si sono posti il problema di dire: ma qual è la prossima piattaforma? Non sarà più lo smartphone, sarà il veicolo. Tant'è vero, non è un caso che Elon Musk dice il veicolo è uno smartphone on the wheels, quindi è un telefonino su ruote. E quindi lo stesso gioco di andare a creare proprio un sistema operativo, dei sistemi, che è software, che in qualche modo gestiscono tutte le funzioni di veicolo in modo aperto, di piattaforma, questo è il cuore della missione di Cyngn proprio ora. Cyngn con la CYGEN, se poi volete andare, poi anche nel nostro sito internet indicheremo ovviamente il link. Perché fare un software per automobili? Perché io immagino, così come succede negli smartphone, che il software, il sistema operativo sia fatto dal produttore del telefono o da pochi altri produttori, appunto come nello smartphone. Invece c'è spazio. Ovviamente stiamo parlando di una cosa che non dico che è agli inizi, ma c'è ancora molto fermento, insomma, il mercato è ancora molto aperto, non è che i giochi sono già fatti. Assolutamente, non sono fatti, ed è questo il motivo per cui c'è molto spazio oggi per trovare una soluzione che risponda a dei problemi reali, soprattutto dal punto di vista software. Non è un software precisamente per il veicolo, è proprio nella tradizione Internet of Things. È quello che esce, suggerisco questo paio di begli articoli di Porter, quello delle 5 forze competitive, che recentemente si è occupato di Internet of Things su Harvard Business Review negli ultimi 2-3 anni. E lui fa vedere come l'IoT in realtà è la base tecnica che si distribuisce su 3 layer fondamentalmente. Uno è il layer di oggetto, in questo caso il veicolo. Sì, perché ricordiamo che il veicolo è uno degli oggetti della Internet degli oggetti. Poi possiamo pensare a mille altre cose, ma in questo caso stiamo parlando appunto di un oggetto. Quindi il primo livello è questo. Esattamente. Il secondo livello sono le funzioni di telecomunicazione, quindi ciò che si attacca al veicolo e trasporta il dato verso il cloud, in cui ci sono le applicazioni, i sistemi, i servizi che in qualche modo colloquiano con l'oggetto. E quindi quando si pensa al software, non è un software che sta residente solo in veicolo, ma un software distribuito su questi 3 livelli e che è in grado, secondo proprio lo schema molto bello di Porter, di colloquiare con quelli che sono dei servizi esterni, come li chiama lui. Quindi il terzo livello è il cloud. Il terzo livello in alto è il cloud. Sì. E questi servizi esterni sono le cosiddette API, Application Programming Interfaces, per cui sono naturalmente i sistemi aperti e con queste API gli sviluppatori possono contribuire, portare delle funzioni. Faccio un esempio, le API più diffuse sono quelle per il meteo, quindi per sapere il tempo che fa oggi a Milano c'è un servizio web che ci dice quelle queste. Io posso usare questo dato in mille modi, compresa certo. L'auto, compresa l'auto che quando entra dice attenzione al guidatore, attenzione, quando andrai a Milano c'è una perturbazione che sta arrivando e quindi accertati certo. Che il veicolo sia in ordine. Certo, e possiamo immaginare una prospettiva in cui, perché noi siamo abituati a vedere le previsioni meteo sugli smartphone e non sempre ci azzeccano, ma nell'evoluzione dei sistemi e dei sensori, ci sono aziende che stanno piazzando sensori in giro per il pianeta. Pensiamo ad esempio a Netatmo, che ha centraline meteo sparse per tutto il pianeta. La centralina è a casa nostra, ma noi diamo i dati a questo servizio. Mano a mano che questi servizi si diffondono, io immagino potremo arrivare ad un punto in cui effettivamente noi sappiamo che al tal chilometro c'è la pioggia. Se l'automobile lo sa, come minimo si prepara. Assolutamente, bellissimo esempio, adoro Netatmo peraltro, una bellissima azienda, fa dei prodotti sì. innovativi. Sì, e tra l'altro non c'è bisogno spesso di sensori addizionali, pensa, è facilissimo tramite questa rete CAN di cui parlavo prima, capire qual è lo stato dei tergicristalli. Se il tergicristallo è acceso e rimane acceso per un po' di tempo, presumibilmente lì piove. Se le 10 auto attorno a te hanno i tergicristalli accesi, non può essere un caso, quindi lì sta piovendo e i dati sono mandati come retroazione al sistema infrastruttura a beneficio dell'ecosistema. Ah, fantastico, cioè tu puoi fare le previsioni del tempo guardando su quanti veicoli ci sono i tergicristalli che stanno andando. Per esempio, se hai appunto un software, un'infrastruttura aperta di veicolo e di cloud e di TLC che ti consente di interoperare tra gli oggetti, tra i servizi in questo ecosistema Internet of Things votato all'autonomia. Sì. Ovviamente qui si possono aprire mille temi, il tema dei dati e di chi sono i dati, perché uno potrebbe dire ma il fatto che i tergicristalli stanno andando sono affari miei, non voglio che gli altri sappiano che io sto facendo andare i tergicristalli, però non sarà così, cioè ci saranno una serie di dati che automaticamente saranno disponibili per tutti in maniera aperta. Suggerire già degli smartphone. Noi diamo una marea di dati nostri molto privati e molto riservati ad Apple, Google e tutte queste aziende, perché ne abbiamo un valore di ritorno. Quindi se lo scambio, come dire, sarà sufficiente, sufficientemente valore per il consumatore, allora potrà funzionare, anche se è chiaro che ci sono delle problematiche di privacy, delle problematiche da gestire a livello normativo. Sì. Senti, il software che voi state facendo e state sviluppando è un software che servirà a che cosa? Cioè a far andare tutta l'automobile, ma chissà poi quale automobile, o sarà da qualche parte per gestire un particolare aspetto? Beh, non per far andare tutta l'automobile. Mm. Diciamo che la piattaforma, diciamo, di base del veicolo è quella e l'ereditiamo. E qua è interessante già vedere come sarà l'anatomia del veicolo autonomo, per cui per esempio tutta la parte di meccatronica del veicolo autonomo chiaramente dovrà essere pilotabile e controllabile in qualche modo. E noi ci focalizzeremo più sui servizi a valore aggiunto, per cui chiaramente dalla percezione del veicolo, quindi dall'acquisizione dei dati dal sensore, l'elaborazione delle logiche, intelligenza artificiale per far prendere decisioni sia a livello locale del veicolo sia a livello di infrastruttura, quindi cloud, sì, con poi ripercussioni sull'intera flotta e altri tipi di servizi. Senti, una cosa che io ti ho già anticipato, ma vorrei che tu cercassi di trasferire a me e anche agli ascoltatori, è quanto fermento c'è attorno a questo mercato. Perché uno, quando si parla di veicolo a guida autonoma, potrebbe pensare, e molti pensano, che è una cosa che succederà fra 10, quindi 20 anni, una cosa molto lontana, quindi chi se ne... Cioè è una curiosità, invece no. Assolutamente no, il veicolo a guida autonoma, io lo dico sempre, è la summa teologica della meccatronica e dell'IoT. La meccatronica noi tra l'altro in Italia possiamo dire la nostra. Assolutamente sì. Per cui succederanno tante cose che produrranno una inerzia che porterà al veicolo autonomo prima. Per esempio la mobilità elettrica. Tutti i veicoli autonomi usano veicoli elettrici perché sono più facili dal punto di vista meccatronico, più facili dal punto di vista del controllo. E in effetti vediamo dei trend molto forti sulla riconversione dell'intero parco a macchine a combustibili fossili verso l'elettrico. E questo già è un trend pazzesco che sta cambiando moltissimo. Si guarda il caso di Tesla, che guarda caso è una delle case auto che iniziano a proporre dei servizi di automazione. Non possiamo definire Tesla un veicolo autonomo, però con degli elevati livelli di automazione, soprattutto in autostrada. E quindi succederanno tante cose prima del veicolo autonomo molto grosse che condurranno al veicolo autonomo, ma già questi macro trend sono significativi e molto molto rapidi. E bisogna agganciarli subito, questo trend della mobilità elettrica non possiamo perderlo. E ci sono dei temi di infrastruttura, come facciamo a ricaricare, dove sono le colonnine, qual è la strategia di generazione dell'energia, di proprio infrastrutture di trasporto. E quindi ci sono tutti dei temi che produrranno questo cambiamento. È un cambiamento disruptive, è un cambiamento molto grosso che avrà delle implicazioni sociali enormi, per cui deve essere preparato e sarà preparato da cose grosse prima, sì, evidentemente. Questo vuol dire che ci sono già oggi e ci saranno sempre più investimenti enormi. Giganteschi, già sì, siamo nell'ordine delle decine di miliardi. Di dollari. Di dollari, assolutamente. O di euro, so che cambia. Sì, assolutamente sì. Silicon Valley ci sono noti casi di acquisizioni veramente miliardarie, da 8 fatta da Google, Cruise acquistato da GM, quindi anche dei giochi abbastanza bizzarri come catena del valore, quindi Google che compra l'auto autonoma di 8 per fare il truck, Uber ha comprato 8, e quindi chi fa car sharing, carpooling, sì. E poi invece GM, casa auto tradizionale, che compra Cruise, e oggi Cruise tra l'altro è una delle società più avanzate dal punto di vista dei sistemi autonomi in strada, sì. Senti, quali sono i nodi ancora da risolvere perché il veicolo a guida autonoma sia veramente bravo a guidare come noi, almeno come noi? In certi contesti è già addirittura molto più bravo di noi. Il problema è che questi contesti non sono facilmente ripetibili. Quindi, per esempio, a Mountain View, dove c'è la sede Google, in cui la sperimentazione va avanti da anni con decine, se non centinaia di veicoli, compresi tra l'altro i Waymo con Chrysler Pacifica, peraltro recentemente che ho visto su strada un mesetto fa, e lì sono sicuramente il veicolo autonomo più bravo di noi a guidare, perché ha una esperienza del luogo così consolidata che il sistema centrale, che questa intelligenza artificiale è diventata veramente brava a guidare. E infatti riduci incredibilmente gli incidenti. Cioè, uno dei primi effetti della guida autonoma, se tutti i veicoli fossero autonomi, è una riduzione dell'ordine delle decine di percentuale degli incidenti. Fino a, c'è chi dice fino al 90%, come è successo nell'avionico. E il problema è che quando ti sposti da Mountain View a San Francisco cambia tutto. E quindi sarà macchia di leopardo. E le sfide più grosse sono proprio quelle. Sono capire come far scalare da un territorio all'altro, quindi come fare a fare velocemente acquisire esperienza al sistema, e poi dall'altra parte ci sono evidentemente dei vincoli laddove ci sono dei territori non pronti dal punto di vista infrastrutturale, quindi con delle infrastrutture che non sono adeguate per la guida autonoma, quindi che devi avere dei riferimenti visivi di posizione, localizzazione GPS, tutto quello che è un'infrastruttura tecnica e tecnologica adeguata, e poi ci sono dei limiti legati proprio ai costi. Ai costi ancora, che sono ancora abbastanza elevati, soprattutto della componentistica legata ai sensori, ma anche alla gestione di questo ammontare di dati pazzesco. Credo che la macchina Google generi 1 terabyte al secondo, tanto per dare un'idea dell'ammontare di dati che sono a disposizione del sistema. Quindi già solo come trasferirli, elaborarli e fare storage di questi dati è un problema. Senti, per la guida autonoma è fondamentale e necessaria la parte in cloud, cioè su internet, o possiamo immaginare che sempre più le macchine saranno in grado di gestirsi autonomamente anche sconnesse, perché effettivamente se ci fosse un buco di rete mica si può fermare l'automobile. Esattamente, e è fondamentale, e però i nuovi trend che si chiamano edge computing o fog computing spingono fortemente sull'importanza della periferia, quindi dell'automobile in sé o dell'oggetto in sé. Cosa vuol dire? Che non bisogna immaginare come tutta l'intelligenza stia sul cloud e lì eserciti in qualche modo anche le funzioni di controllo locale, ma il cloud è più utilizzato come un sistema di analisi e poi di elaborazione di nuove funzioni che vengono messe dentro al veicolo, che a quel punto è in grado di procedere in modo autonomo senza più collegamento col cloud. E poi man mano che il veicolo incontra nuovi casi, li trasferisce al cloud, il cloud rielabora e manda giù quello che è un aggiornamento delle funzioni. Questo è proprio un sistema edge computing, fog computing. Sì. Tu che cosa ti immagini? Cioè, vedremo veicoli a guida autonoma entro il 2000, le case automobilistiche parlano di 2020-2022 già commerciali acquistabili, però immagino che all'inizio costino un sacco di soldi, lo si potranno, poi dipende dove si potrà utilizzare. Magari qui facciamo anche una parentesi sull'Italia. Ma iniziando appunto parlando di piloti, potremmo iniziare oggi. Se noi fossimo appunto in Italia abbastanza, come dire, smart da copiare la legislazione di test americano e invitare le case auto a provare. Perché? Per piloti intendi test? Test, okay. Certamente, ma test anche di una certa dimensione. Adesso il governo americano ha recentemente approvato una nuova legge che concede fino a 100.000 veicoli all'anno, un po' fuori dalle regole, diciamo, ai costruttori per fare testing. Quindi non stiamo parlando di due veicoli, ok? Sono un discreto ammontare di veicoli. Perché l'Italia, soprattutto diciamo se pensi a infrastrutture come la 1 Milano-Bologna o le strade diciamo in generale, sono decisamente ottime infrastrutture anche rispetto a quelle che io trovo in California. Cioè, se penso alla 101, che è l'autostrada che collega San Francisco a San José, ma magari avessi la 1 in quel tratto, perché non io è così. Ti potrei dire con quel che costa ci mancherebbe, però esattamente la 1 e non la 101 esattamente però lì potremmo già andare sicuramente sulle condizioni per andare a testare questi tipi di veicoli. Sì. Per l'uso invece come dire passeggeri o utility ci vorranno tanti anni e sarà macchia di leopardo e sarà macchia di funzioni. Cioè, tanti quanti? Ma secondo me dipende ancora una volta dal coverage, cioè. Quindi se per avere una funzione di automazione in autostrada, sì, è ragionevole 2020, per cui anche in Italia, perché effettivamente la tecnologia è matura per quel tipo di contesto. Mm-hmm. Se voglio una circolazione a Roma, La vedo un po' complicata. Un po' più complicata. Beh, anche in altre città. Forse onestamente non arriverà mai. Se in qualche modo non ci sono dei cambiamenti infrastrutturali, almeno in alcuni pezzi di Roma, penso al grande raccordo anulare, per esempio, in cui si investe per dire ok, allora agevoliamo questo tipo di tecnologia. Certo, però nelle autostrade già pensate ad esempio al trasporto dei mezzi pesanti, al trasporto delle merci. Poi ovviamente in una prima fase ci saranno ancora gli autisti a bordo, poi magari dopo 10-15 anni, però effettivamente questo è un trend interessante e non bisogna pensare che si arriverà fra quanto, perché le basi si stanno ponendo oggi. Senti, c'è un aspetto molto bello, tra l'altro, di cui tu ti occupi direttamente, che è il cosiddetto ecosistema. Perché l'automobile, poi vedremo se succederà, però già oggi vediamo alcuni semi che potrebbero dar frutto nei prossimi anni. Che cosa intendiamo per ecosistema quando parliamo di veicoli a guida autonoma o comunque già in una prima fase di veicoli connessi? Perché l'elemento della connettività è un elemento importante che già oggi vediamo molto presente. Sì, è l'elemento che abilita e rende veramente accessibile la guida autonoma e che abilita tutti i servizi legati alla guida autonoma. E iniziamo a vedere degli esempi molto interessanti in questo, per cui per esempio negli Stati Uniti credo che Pizza Hut, un altro di questi grossi produttori di pizza, abbia fatto le prime auto autonome che portano e fanno il delivery di pizza. Un pilota ovviamente, però fanno il delivery con tutte le automazioni, che arriva a casa, scende le finestrine, esce la pizza, tutte queste cose qui. E senza nessuno a bordo? Senza nessuno a bordo. Quindi è un test, che è permesso dalle leggi. Che è permesso ovviamente. Cioè in Italia non si potrebbe leggi. Fare. Esattamente. È chiaro che, per cui questo è un esempio lì, è chiaro che questo veicolo, credo che sia General Motors, non sono certo, ma credo che sia General Motors, è connesso ai sistemi informativi di Pizza Hut, di chi fa la pizza. Per cui vedi come questi sistemi di interconnettività, queste API, permettono e abilitano questo tipo di servizi. E se ne possono immaginare una moltitudine, onestamente, per cui infatti anche Syngen specificatamente è focalizzata non tanto sulla mobilità in senso generale, ma quella che viene chiamata purpose driven autonomy, per cui un'autonomia che ha un task, che ha uno scopo specifico, che non è necessariamente portare una persona dal punto A al punto B, ma deve rispondere ad uno scopo, ad un obiettivo preciso. E questo è, tra l'altro, consente una marea di ecosistemi, perché tutte le auto che stanno uscendo adesso, le auto elettriche, non autonome ancora, addirittura le auto elettriche, quindi Tesla, ma anche la Bolt, la Chevrolet Bolt, e queste auto qui hanno l'LTE nativo. Che in Europa si chiama Ampera. Opel Ampera. E queste auto hanno già l'LTE nativamente interno. Sì, la connettività telefonia mobile. Sì, assolutamente. Sì. Grossi display a bordo, sì. Quindi con la possibilità di dare all'utente delle informazioni importanti. Sì. E questo abilita peraltro dei trend anche abbastanza particolari, l'auto elettrica. E Tesla, saprai che ha i supercharger, questi punti di distribuzione dell'energia, dove loro forniscono energia gratis, sì, sui modelli S. E sì, le colonnine di ricarica dedicate a quell'auto. Esattamente. Sì. E adesso proprio leggevo ieri una notizia bizzarra, che il CTO di Tesla si è presentato a una conferenza sul food. Dici, ma perché sul food? Cibo. Sul cibo, perché? Perché adesso loro stanno iniziando a immaginare di fare delle stazioni di servizio monomarca legate proprio alla ricarica del veicolo. Quindi la ricarica del veicolo, che comunque richiede mezz'ora, 40 minuti o anche più, diventa anche un po' un'esperienza di consumo per loro. Questo bisogna lavorare, nel senso che ci si immagina che si possa anche ridurre questo tempo di ricarica, però non sarà mai 2 minuti. Non lo sarà. Anche adesso la nuova Porsche, che ha presentato questo nuovo veicolo che uscirà a fine anno, dicono che con questa tecnologia 800 volt riescono a fare veramente molto presto. Però insomma vedremo. Prima che si diffonda questa tecnologia, chiaramente c'è bisogno di tempo. Sì, sì. Ma anche in modo molto più semplice. Pensa che Tesla già oggi in veicolo offre streaming audio di musica proprio direttamente dal cloud. E recentemente c'è stata qualche speculazione che anche loro vogliono diventare fornitore di contenuti. Per cui vediamo già una casa auto, tra virgolette innovativa, ma comunque una casa auto che inizia a dire: faccio auto, ma le auto sono smartphone on wheels, e per cui io offro dei contenuti. Servizi e contenuti, sì. Per cui ti do la musica, ti posso dare qualche altro tipo di contenuto di intrattenimento, ma anche un'esperienza quando arrivi al punto di ricarica, ma anche tutta una serie di servizi di ecosistema importanti. Certo, pensate che cosa può succedere sapendo dove si trova l'automobile, e magari sapendo anche i miei gusti, io potrei dire alla casa automobilistica: fammi sentire la musica adatta al luogo dove sto andando. Allora tu ti trovi in un particolare luogo e magari ti vengono suggeriti dei brani adeguati. Vedremo se questo accadrà, perché se noi prendiamo l'esempio dei televisori, io ricordo che qualche anno fa avevamo commentato l'arrivo dei primi smart TV e una delle prospettive era: i produttori di televisori hanno un parco installato, o avranno, all'epoca si diceva, avranno un parco installato così elevato di milioni di televisori che potrebbero consegnare direttamente sul mio televisore il contenuto. Pensiamo al caso di Sony, che è un bel esempio. Milioni di televisori distribuiti e venduti, Sony possiede i contenuti perché è uno dei più grandi produttori di film, e quindi potrebbe diventare un distributore. Poi invece è nato Netflix, o meglio si è sviluppato Netflix, che è nato 20-30 anni fa, e tutti gli altri servizi di streaming. Vedremo se nelle automobili i produttori di automobili riusciranno a fare una cosa del genere. Non è scontato, magari invece vinceranno Apple e Google, che stanno lavorando, mi confermi, molto pesantemente su... Beh, Google è noto, Apple un po' più nel segreto. Sì, Apple, questo Project Titan, come si è scritto sui blog, di rumors, di più non so nemmeno io. Cioè, anche se tu stai a Palo Alto, vicino ad Apple, mantengono il segreto. Assolutamente, le aziende della Silicon Valley sono molto riservate. Sì. Senti, perché tutto ciò deve interessare a noi italiani? Sicuramente perché noi le auto le sappiamo fare davvero. Sappiamo fare... molte cose che stanno sull'automobile. Esattamente, quindi già il gruppo Fiat, devo dire che FCA tra Italia e Stati Uniti è molto presente, perché il brand Chrysler, devo dire, Silicon Valley è piena di Fiat 500 elettrica, piena, se ne vedono in continuazione, quindi già questo è la dimostrazione che anche la nostra casa auto, diciamo, nazionale potrebbe avere la sua da dire. Però noi siamo molto forti sulla componentistica, mi concentrerei su quello, poi sei tu l'esperto, ma non vorrei guidarti. No, ma è proprio così, cioè noi siamo forti nella costruzione del veicolo e nella parte più meccatronica, potremmo dire. Infatti l'eccellenza tra la Motorvalle Emiliana e tutto il distretto del Veneto, Lombardia, Piemonte, e quelle cose lì le sappiamo fare davvero bene. E attenzione, per il veicolo autonomo è un veicolo che ha sì la parte di cosiddetta di perception, di percezione, i sensori, quindi la videocamera, il LiDAR, il radar, tutti questi sensori. Ha una parte di artificial intelligence, ma quando questi due sistemi decidono cosa deve fare il veicolo, qualcuno deve implementare quella decisione. E per esempio c'è una grossissima fetta di mercato ancora scoperta sui veicoli un po' più piccoli, in cui questi tipo di sistemi, che si chiamano by-wire, quindi guidati comunque da un controllo by-wire, dal filo, quindi dal filo elettrico, non dall'olio o da tutti questi dispositivi, sì. E lì noi sicuramente avremo la nostra da dire. So che qualcuno in Italia ci sta lavorando, abbiamo delle aziende eccellenti, Brembo per citarne una, ma anche aziende molto più piccole, Magneti Marelli, sì, certo, no. Certamente, ma lì certamente possiamo dirla nostra. Molto bene, Stefano, io ti auguro buon ritorno, buon lavoro, ci rivediamo la prossima volta che capiti in Italia. Ti ringrazio molto volentieri. È tutto per questa puntata, la nostra versione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Ci risentiamo la prossima settimana. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica per raggiungermi è 2024@radio24.it, oppure potete utilizzare anche Facebook o anche Twitter. Ancora un ringraziamento, appuntamento alla prossima settimana.